Today we shall continue with our Dhamma talk, or the topic from yesterday, namely understanding and certainly handling afflictive emotions, part 2. Oggi continuiamo con lo stesso tema di ieri, che appunto era quello a capire e trattare le emozioni afflittive. Now, yesterday we briefly spoke about the mental defilement of ignorance. We also spoke about greed and then about aversion related to this certain fear as well as anxiety. And then today we shall continue to explore a sloth and torpor, as well as restlessness and remorse, and then skeptical doubt. And I will also briefly say a few words about tranquility as an opposite to restlessness and remorse, and if time permits, also say a few things about faith as opposed to skeptical doubt. Quindi ieri abbiamo parlato dei stati mentali di ignoranza, avversione, avversione anche correlato con stati di ansia. E oggi invece continueremo con gli altri stati mentali, quelli del sloth and torpor, la pigrizia, con col rimorso, il dubbio, e parleremo anche degli stati della tranquillità collegati verso al rimorso e alla restlessness. E anche della fede rispetto ai dubbi. Now, with regards to all of these mental defilements or afflictive emotions, to know their presence and to know their absence is already of great value. Quindi riguardo a questi a queste emozioni affliggenti, già il conoscere se sono presenti o non ci sono, già questo è un valore, è importante. So if for instance we are experiencing a state of let's say mental inactivity and lethargy, and the mind is not working properly, and we then recognize this as the case, as a case of sloth and torpor. So we recognize the presence of sloth and torpor, then this helps us to deal with it properly. Quindi se per esempio nella mente c'è appunto uno stato di letargia, di inattività, e noi lo riconosciamo come uno stato di pigrizia mentale, già questo ci aiuta per capire come trattare questo stato. And so, if for instance there is an absence of sloth and torpor, then from this also we can derive some information, and with this we know the mind will be more on the energetic side. Quindi se invece ci rendiamo conto che non c'è questo stato di pigrizia mentale, sappiamo in questo punto che la mente è più energetica, più attiva. Or to give you another example, in the case of skeptical doubt, oftentimes among beginning meditators, they are overwhelmed by skeptical doubt and don't even realize that this is skeptical doubt. And this mental state of skeptical doubt is certainly going on, but certainly one doesn't get the point. And finally, when one realizes, this is skeptical doubt, the mind is afflicted by skeptical doubt, then this realization, skeptical doubt is there, then helps to deal with it and overcome the skeptical doubt. Otherwise, it might go on for a long time. Quindi, un altro esempio che possiamo prendere è quello del dubbio, dello dubbio scettico, che se noi non ce ne accorgiamo che c'è questo dubbio, c'è questo stato mentale che va avanti dentro di noi e non ce ne rendiamo conto, e questo ci blocca in qualche modo, e quando lo realizziamo che c'è, che sta qualcosa sta andando avanti, lo individuiamo, allora possiamo capire e mettere e fare qualche cosa verso di lui. No. As for the two mental states of sloth and torpor, sloth can be said or expressed as or described as sluggishness and dullness of the mind, and torpor can be described as weakness and morbidity of the mind. Quindi per quanto riguarda sloth and torpor, quindi la pigrizia mentale, sloth potrebbe essere, viene descritto come opacità mentale, mentre il torpore è... Torpor is torpore, but you said something else? Oh, no, I said weakness and morbidity of the mind. Quindi debolezza e morbidità della mente. No, in terms of sloth, this certainly is further described as the indisposition of the mind, or else as unpreparedness of the mind for good action, for wholesome action. Quindi l'opacità della mente, la pigrizia della mente viene anche descritta come indisposizione della mente, e la mente che non è preparata a for good action. Per buone azioni. And so we can also describe sloth, in Pali known as tina, as dullness of the mind, or as idleness or disinclination to action. Quindi sloth, che in Pali viene chiamato tina, è anche appunto descritto come opacità, la mente che non è inclinata, che non è disposta verso buone azioni, verso attività della mente. And so, apparently there is an animal by the same name, namely sloth, and that animal is characterized by its inactivity. So apparently it's just whiling its time away on the beach, not moving. And so the mental state of sloth is very similar to this animal. Quindi apparentemente sembra che ci sia un animale che si chiama sloth proprio, e che la sua caratteristica è proprio l'inattività. Sembra che passi il suo tempo sdraiato sulla spiaggia senza far nulla, inattivo. No, a much more detailed definition of sloth is given in the Visuddhimagga, the path of purification, and there it says its characteristic is the lack of driving power. So there's no energy to move ahead, no power to move ahead. Quindi ancora viene definito nel Visuddhimagga il sentiero della purificazione come una mancanza di forza trascinante, come se la mente sia scarica in qualche modo. And certainly each of the mental factors or mental states performs a certain function, and the function in the case of sloth is simply to dispel energy. So if you had energy beforehand and suddenly then sloth sets in, then it suddenly will take away your energy. Quindi, come tutti gli stati mentali hanno una funzione, quello della pigrizia mentale di Tia, ha quello di disperdere energia. Quindi, se voi prima avevate energia per fare meditare, la funzione che ha questo stato mentale è quello di disperdere, di azzerare questa energia. And certainly this sloth is experienced by meditators as the sinking of the mind. So if earlier on the mind is quite active and present at a high level, then gradually this changes and the mind drops to a state of mental inactivity. Quindi un altro modo per descrivere questo stato mentale è quello della mente che affonda. Quindi se prima avevate energia, una buona energia attiva, piano piano la mente si diventa inattiva invece, diventa letargica. No, the proximate certain cause for the arising of sloth is certainly given as unwise attention to boredom, dullness, and certain sluggishness, thinking that when these certain states are present in the mind, that it's quite okay, and it's quite okay to spend certain one's time with certain drowsiness. Quindi la causa prossima di questo stato mentale è uno stato di pigrizia, di sluggishness, letargia, e quando avviene, diciamo, è come se la mente non se ne accorge, sì, ok che io ho questo stato, non c'è nessun problema, da questo tipo, diciamo, di risultato nella mente. No, our teacher from Burma, the Venerable Sadhu Pandita Biwamsa, based on the commentaries, has explained that suddenly when this slothfulness sets in, then the mind congeals. So it's like water. If you put it into a freezer, then gradually it congeals. And not only this, it solidifies, it hardens, and suddenly one could even say it freezes. And with this, the mind then becomes inactive. E il nostro maestro Sadhu Pandita di Burma descrive, basandosi sui testi, pali, descrive questo stato mentale anche come uno stato che congela la mente, la fa diventare dura, inattiva. And so one way of understanding this particular aspect is, let's say during the last sitting of the day, you're pretty tired, you want to go to bed, and you're sitting in meditation, and then just to check for yourself, within a 10-minute period, how many objects do you manage to observe actively and know their nature? So most likely, this certain number of objects that you're observing will be what? Very high or very low? Low. Very low. There you go. Quindi diciamo un suggerimento, per esempio, per capire questo stato mentale, quello verso la fine, la giornata meditativa, gli ultimi 10 minuti, 20 minuti, vedete un po', quanti oggetti riuscite a vedere chiaramente, se saranno molti o pochi. No, simile or the comparison that comes to mind right now is such a mind is somewhat as if in a state of anesthesia. So the doctor comes and gives you anesthesia, then the mind is just not working. Quindi un altro esempio che viene in mente adesso è quello dell'anestesia. Se un dottore viene e vi dà un anestetico, semplicemente la mente non funzionerà più. Now, when it comes to torpor, namely midda, in the Pali scripture language, then this is a bit different from sloth. And sometimes it's very difficult to see those differences. Quindi invece per quanto riguarda il torpore, che in lingua pali viene chiamato midda, questo ha una caratteristica similare ma un po' differente dalla pigrizia mentale, dallo sloth. So in the case of torpor, it has been described as indisposition of mental factors. Early on it was indisposition of the mind, now it's indisposition of mental factors. Quindi viene definito come indisposizione dei stati mentali, mentre l'altro era definito come indisposizione della mente. And so it has also been described as unpreparedness of the mental factors for good action. Quindi anche definito come in non preparazione della mente verso le buone azioni. And so it has been explained further as an internal blockage of mental factors. È stato ancora, viene spiegato ancora come un blocco interno dei fattori mentali. And then using ordinary terms as sleepiness, as drowsiness, and then lethargy. E ancora come sonnolenza, come letargia. No. When it comes to the classical Visuddhimagga definition of torpor, this torpid and or morbid and weak state of mind has the characteristic of unwieldiness. Quindi ancora il Visuddhimagga lo descrive. La descrizione classica come una mente, cioè uno stato mentale che rende la mente debole e morbida, e come una mente che non si piega facilmente. And its function is to smother, just like you smother a fire by maybe throwing some wet grass on it. Ah, e la sua funzione è quella di soffocare. È come quando mettete dell'erba verde sopra un fuoco. And so, the way we experience this torpor, the way it is manifested in the mind, is as tiredness, as exhaustion, as drowsiness, as nodding, and sleepiness. Quindi come lo sperimentiamo, la sensazione che abbiamo di questo stato mentale è stanchezza, è pesantezza, è sonnolenza. No, in both cases the proximate cause for sloth and torpor is unwise attention to boredom and sluggishness, drowsiness and sleepiness. E anche in questo caso la causa prossima di questo stato mentale è l'attenzione non giusta, non saggia, che porta appunto a queste conseguenze di letargia, di sonno. No, when we try to gain some understanding about the mind, and we experience sloth and torpor, then what would be its opposite? Quindi se vogliamo capire qualcosa della mente e sperimentiamo appunto la svolta dopo la pigrizia, il torpore, quale sarebbe il suo opposto? Mindfulness, with mindfulness you deal with it. The opposite, the end, there you go, energy, that's it. And now, other causes that have been given for the arising of sloth and torpor are, for instance, heat or an illness or the strain of many months of intensive sadhana practice, as well as the frequent arising of mental impurities, such as sensuous sadhana thoughts, such as hateful thoughts, as well as sadhana thoughts of cruelty. Prima ho tradotto l'opposto della pigrizia, il torpore è chiaramente l'energia, diria. Dunque, con la pigrizia mentale e il torpore vengono facilmente, diciamo, stimolati dal caldo, dalla malattia, anche da molto tempo, molti mesi passati nella pratica. Nella pratica meditativa, ma anche da stati mentali impuri, come pensieri sensuali, anche pensieri di crudeltà. Now, another cause that has been mentioned in the Samyutta Nikaya is a depressed state of mind. So, when the mind goes into a depressed state, then we no longer feel like being active, but rather think of resting or even going to bed. Un'altra cosa che viene descritta nel Samyutta Nikaya è come viene descritto questo stato mentale, è come quello della mente depressa, che a un certo punto comincia a sentirsi inattiva ed ha come una sensazione di voler andare a dormire, di addormentarsi. No. As with the other afflictive emotions, if we keep, if we, when they occur, and we think, okay, it's fine, let's these states arise, there's nothing wrong with them, then we're basically feeding them or nourishing them, and thus they will grow. So the thing to do is not give attention to them and to change them around. Quindi, come le altre emozioni afflittive, lo sbaglio che si può fare è quello appunto di pensare: oh, ok, non è niente, non c'è nessun problema se sto in questo stato mentale. E in questo modo che questi stati mentali cresceranno. E invece è proprio l'opposto, è quello di non dare attenzione a questi stati, non nutrire questi stati mentali. No. Earlier on, it was mentioned that to know the presence of an afflictive emotion can be very helpful. And to know the presence of sloth and torpor is extremely helpful, because we then can follow that a number of, or we can assume that a number of other unwholesome mental states are likely to arise, and those are as follows. Quindi, come per gli altri stati mentali affliggenti, l'importante è proprio quello di rendersi conto quando uno, quando per esempio, ecco, lo sloth and torpor, la pigrizia e il torpore cominciano a sorgere, perché possiamo dare per sicuro che anche degli altri stati mentali della serie cominceranno a sorgere, come che adesso descriverà. So, in the presence of fatna, sloth, and torpor, obviously unwholesome mental, other unwholesome mental states are likely to arise. And those certain could be, as is mentioned in the text, lack of faith, lack of moral shame, lack of moral fear, little learning, and lack of wisdom, intuitive wisdom. Quindi, come altri stati mentali non salutari che possono accompagnare appunto sloth and torpor, il torpore e la pigrizia, sono mancanza di mental shame, di pudore, di vergogna. First was lack of faith. Mancanza di fede anche. E lack of moral shame, moral fear, learning. Di paura. E mancanza di apprendimento. And then wisdom. E di saggezza. So the presence of fatness, sloth, and torpor may have some tangible negative consequences. Quindi la presenza del torpore, della pigrizia mentale possono avere delle ripercussioni tangibili. No. As usual, how do we deal best with sloth and torpor? Mindfulness is our first means of dealing with it, of becoming aware of it and coming to know its nature. And then, eat moderately, knowing that overeating might cause sloth and torpor. Quindi naturalmente il primo mezzo che abbiamo per contrastare la pigrizia, il torpore, è chiaramente la consapevolezza, divenire coscienti, divenire consapevoli che c'è, e un'altra cosa sarebbe quella di mangiare moderatamente, di non abbuffarsi. And certainly, if you find that sloth and torpor occurs mostly in one posture, let's say in the sitting posture, but not in the walking posture, then a way of dealing with sloth and torpor would be reduce the sitting meditation and do more active walking meditation. Now, another means of dealing with the sloth and torpor would be to go into or to go outside and let's say do some walking meditation outside. Quindi, per esempio, se vi rendete conto che la pigrizia e il torpore sono collegati, per esempio, a una particolare posizione, postura di meditazione, come la posizione seduta, un modo per poter contrastarla sarebbe quella di fare, per esempio, della walking meditation più della sitting meditation, oppure ancora di uscire fuori per fare la walking meditation all'aria aperta. And then there's a whole range of other possibilities, and one can be very creative if one likes to. So standing meditation might also help. In standing meditation, there's always the danger of falling over, and that will that will activate your mind. And so, then apart from that, you might consider, let's say, taking a shower with cold water, freezing cold water, or in Asia, it seems Ajahn Chah once recommended to to a student of his, and I think that's Jack Kornfield, namely and to do his meditation practice on the rim of a deep well. And so when you sit there, then obviously there's always the danger of falling into the well, and that would then probably help to attract the sleepiness away. Quindi ci sono molti modi per trattare con il torpore, con la pigrizia mentale, e c'è bisogno anche di un po' di creatività. Quindi uno di questi potrebbe essere quello di fare la meditazione in piedi, perché chiaramente in piedi c'è il rischio, se uno si addormenta, di cadere, e questo potrebbe essere un modo. Oppure ci potrebbe essere quello di andare a prendere una doccia gelata, sicuramente risveglia. Oppure c'era un maestro thailandese di meditazione, Ajahn Chah, che consigliava uno dei suoi studenti di fare meditazione sul bordo di un pozzo, di un burrone, di un pozzo altissimo, in modo che la paura di cadere dentro manteneva sveglio l'allievo. Now, the next pair of afflictive emotions comes in the form of restlessness and remorse, and both of them create agitation in the mind. Allora, l'altra delle dei stati mentali, delle emozioni stati mentali afflittive è il rimorso e l'agitazione. No, first of all, agitation. E l'agitazione. And so when restlessness is prominent, then it will be there, or then the mind will be flitting from one object to another. It will be moving here and there. It is unable to stay with one single object for a longer period of time. Quindi quando lo stato mentale dell'agitazione e del rimorso sono è presente, la mente non starà facilmente ferma, salterà da un posto all'altro, starà sempre in agitazione, si starà, muoverà sempre. No, in the case of remorse, we experience this as a form of in the form of thoughts, too bad I committed such and such unwholesome deed, or regret over the opportunity missed to do wholesome deeds in the past. Quindi invece per quanto riguarda il rimorso, che ci saranno nella mente dei pensieri di quello che uno ha commesso di male, quindi diciamo di rimorso verso quello che ha fatto, oppure quello di non aver fatto, cioè di quello di aver mancato di fare del bene verso qualcun altro. No, in the case of restlessness, in the Pali scriptural language known as Udicca, its certain characteristic is given as disquietude. And certainly the illustration given in this context is certainly that of water whipped up by wind. Quindi per quanto riguarda l'agitazione mentale, in Pali viene chiamata Udicca, viene anche descritta come irrequietezza della mente, ed è diciamo è data un'immagine come l'acqua che viene agitata dal vento. Now, early on, we said that the function of sloth was to dispel energy. Now, in the case of restlessness, the function is to make the mind unsteady. Prima abbiamo descritto la funzione della pigrizia mentale come quella di disperdere energia. Questa invece del rimorso, dell'agitazione mentale, è quella di rendere la mente non stabile. And suddenly this restlessness is suddenly manifested or experienced as suddenly turmoil in the mind. E questa situazione mentale si manifesta, si sperimenta come turmoil, like chaos, come una mente caotica. Something like that. No, the mind suddenly that is in very much in motion. È una mente che è molto, sì, vabbè, agitata, molto. No. Tormentata, grazie. No. Many people these days are exposed to a huge number of sense impressions. People experience basically or are being bombarded by sense impressions. Quindi al giorno d'oggi le persone vengono sottoposte, bombardate da un grandissimo numero di impressioni sensoriali. Mm. So for instance at the workplace, if you do work in an office or in a factory, then there might be a telephone call coming, and your landline call, and then after 5 seconds there's a call coming through your mobile phone, then there's a person who wants to talk to you, and then there's maybe also the computer screen or the computer switched on, and some email is coming into your account, and then there may be external noises and so on and so forth. And so people think this is normal. Quindi, ecco un esempio, per esempio potrebbe capitare che nell'ambiente di lavorativo, in ufficio, in fabbrica, che non so, ricevete una chiamata sulla linea telefonica e mentre state parlando contemporaneamente suona il cellulare, e mentre state anche sul cellulare dal computer vedete che è arrivata un'email e c'è del rumore fuori There's a person who wants to talk to you. c'è anche una persona che vuole parlare allo stesso tempo con voi, e tutto questo viene considerato normale? No. Under such circumstances it is obvious that the mind is going to be in a state of turmoil. Quindi diciamo è normale che la mente sotto tutte queste impressioni, questi stimoli, sia in uno stato di turbolenza. Turbolenza, that's a good one. And so if we live like this day after day, then we think this is normal. And only when we come on a meditation or when we come on a meditation retreat and stay long enough for, let's say, some tranquility, some calmness to arise, do we realize the difference between the two? And do we realize how much the mind was in turmoil earlier on? Quindi, se noi viviamo appunto nell'ambiente esterno con tutte queste stimoli, e non ce ne rendiamo conto e ci sembra normale, solo quando veniamo a un ritiro come questi e dopo qualche periodo di tempo cominciamo a sperimentare della tranquillità, della pace, allora solo in quel momento ci rendiamo conto di quanta turbolenza c'era nella mente. And so the proximate cause for the arising of this restlessness is unwise attention to disquiet. So thinking it's quite okay for this state to prevail. Thinking that it's quite okay for the state of disquiet to prevail. Okay. La causa prossima di questo stato mentale dell'agitazione è il pensare che questo tipo di agitazione sia normale, che vada bene, che sorga. So, next comes the mental factor of worry, and this in the Pali scriptural language is known either as kukuccha or as vipatisara. Allora, l'altro stato mentale in cui andiamo a trattare è quello della preoccupazione, che in che in Pali viene chiamato kukuccha or vipatisara. Vipatisara. Yes. No. This kukuccha can be experienced as a feed of as a state of feeling extremely sorry for something for some mistake that one has committed. Si può definire appunto, spiegare come un sentirsi estremamente dispiaciuto per una qualche azione che si è commessa. And so worry could be in the sense that one keeps thinking about something unpleasant, of things that might happen, or about problems that one does have presently. Invece la preoccupazione è diciamo la preoccupazione per qualche cosa che pensiamo che potrebbe accadere, sì. Che potrebbe o che comunque per qualche circostanza che c'è veramente. No, the characteristic of this worry is subsequent regret, and certainly its function is to feel sorry over what has been done and what has not been done. Quindi la funzione di questo stato mentale della preoccupazione è quello del rimorso, quello sì, di avere rimorso di qualche cosa che è stato fatto o che non è stato fatto. And it is manifested as remorse. Eh sì, si manifesta come rimorso. And the proximate certain cause for the arising of restlessness are the wrongs of commission and omission. So, having committed some mistake, be it verbally or physically, or even mentally, and then having missed an opportunity to do good in the past. Quindi, la causa di questa agitazione è appunto il pensiero di qualche cosa che di male, qualcosa che non ci è piaciuto di commettere o di qualche cosa che avremmo voluto fare ma che non abbiamo voluto fare. No, in the other causes for the arising of restlessness are there, namely being practicing with a pushy attitude, forcing oneself to the limit, and that will lead to restlessness. Un'altra causa che può condurre all'agitazione è quella dell'attitudine un po' dello spremersi, un po' di spingere nella pratica, di andare oltre i propri limiti, e questo può condurre a un'agitazione mentale. And certainly another another cause for the arising of restlessness that has been mentioned in the text is certain provocative talk. So maybe being addressed by someone else in a provocative way. Un'altra causa che viene descritta nei testi è quella della parola provocativa, quando qualcuno ci provoca a parole. Now, as with the other afflictive emotions, if we think it's okay for the mind to be restless and for worry to arise, then this will even strengthen the restlessness and will strengthen the worry. And so, if we want to reduce the restlessness and the worry, then we have to work on decreasing those. Quindi, come tutte le altre emozioni affliggenti, spesso appunto è che uno pensa che sia normale avercele. Spesso appunto la preoccupazione spinge a essere agitati, l'agitazione spinge alla preoccupazione, e noi dobbiamo lavorare invece a diminuire queste reazioni. When it comes to restlessness and remorse, the best way to deal with them is, as usual, with mindfulness, but it could also be, for instance, having a fair amount of learning about scriptural learning, so that one knows what is the correct path, or what is correct and what is not correct. Quindi per quanto riguarda l'agitazione e il rimorso, chiaramente la prima cosa da usare è la consapevolezza, ma anche è importante la conoscenza, per sapere quale azione mettere in atto e quale no. No, restlessness is certainly a mental state that is deeply instilled in the mind, and certainly it takes a lot of practice. It takes the attainment of arahantship to eradicate this restlessness, and certainly in the case of worry, it's a bit better. All we need to do is to practice to the third level of enlightenment and become an anagami, and in order to eradicate the worry or remorse from the mind, and that's still difficult enough. Quindi l'agitazione è uno stato mentale che è radicato profondamente nella mente, e per eradicarlo si eradica solamente nello stato, nel quarto livello di illuminazione, quello dell'Arahant. Mentre per quanto riguarda la preoccupazione è un pochettino meglio, perché si può sradicare con il terzo livello di illuminazione, quello dell'Anagami. Now, as mentioned earlier on, we can learn a lot about the mind by way of opposites, knowing, observing and knowing opposite mental states. So the opposite mental state to restlessness and remorse is obviously tranquility. And this we at times may experience practically as a rather peaceful state of body and mind, peaceful, tranquil state of body and mind. Quindi, appunto, quello che ci aiuta a capire gli stati della mente, gli stati mentali, spesso sono gli opposti di uno stato l'opposto di questo stato mentale. Per quanto riguarda la preoccupazione e l'agitazione, l'opposto di questo stato mentale è quello della tranquillità, la tranquillità che si sperimenta come pace sia del corpo che della mente. And when this tranquility is predominant in the mind, then the body also tends to be quite tranquil, and one can stay in meditation or sit in meditation for a long period of time without any difficulties. Quando questo stato della tranquillità è presente nella mente, anche il corpo è tranquillo e ci permette di poter sedere in meditazione per lunghi periodi di tempo. No, tranquillity is usually experienced as a stillness of the mind, so absence of movement within the mind. Lo stato mentale della tranquillità viene anche sperimentato come immobilità della mente, come assenza di movimento. And so now that then is very different, you know, from, you know, the agitation or from, you know, well, this agitation that usually comes along with restlessness and sudden, you know, remorse. E va da sé quindi che è molto differente questo stato mentale da quello della preoccupazione, della agitazione della mente. And so, you know, tranquility is defined again by the Visuddhimagga as the quieting down of disturbances in the mind. Viene descritto nel Visuddhimagga lo stato della tranquillità come il calmarsi, il tranquillizzarsi dell'irrequietezza della mente. And its function is to crush such disturbances. E la sua funzione è quella di schiacciare questi disturbi. And so, you know, the way we experience this tranquility is as peacefulness and certain coolness. Il modo come la sperimentiamo questa stato mentale è quello della pace e della tranquillità. No. The next certain afflictive emotion that we will briefly touch upon is certainly that of doubt. In the Pali scripture language, it's known as vichikiccha. And by doubt, we do not mean an ordinary type of worldly doubt whether it's going to rain tomorrow or not, but rather this is certainly meant as spiritual doubt, so doubt in the Buddha, the Dhamma, the Sangha, the practice. Il prossimo stato mentale che andremo a descrivere è quello del dubbio, che in Pali viene chiamato vichikiccha. E questo è un dubbio, non un dubbio mondano, cioè nel senso su cose banali come se domani potrebbe piovere o non potrebbe piovere, ma più che altro è un dubbio spirituale. And certainly this doubt certainly then has the characteristic of doubting, and its function is to waver. So it causes the mind to waver, to move in this sometimes this way, sometimes certainly that way, and certainly it is manifested as indecisiveness of the mind or taking sides, various sides. Quindi questo dubbio si manifesta come un'oscillazione nella mente, e la sua funzione è the wavering of the mind. L'oscillazione della mente, e genera una indecisione, un prendere e non decidere in quale parte stare. So now doubts oftentimes we experience as having different options. Should, for instance, should I stay and stay on and extend the retreat, or should I just leave at the predetermined date? Or, as maybe a third option, should I go into practice in a totally different tradition? And then the mind will go from option A to B to C and back to B and back to A, and it can do this many times in an hour or many times in a day. Now, you might have experienced this certain kind of situation also in terms of worldly doubt or doubt about some worldly matter, and it is clearly an unwholesome mental state. It's clearly a mental state that causes mental fatigue even. Quindi il dubbio si manifesta, lo sperimentiamo come una serie di opzioni differenti che ci vengono in mente, come per esempio per quanto riguarda la pratica, il dubbio potrebbe essere: dovrei rimanere o prolungare per esempio questo ritiro che sto facendo, oppure un'altra opzione sarebbe quella: o magari invece dovrei andare a praticare in un altro centro con un'altra tradizione. E la mente salta da un'opzione all'altra, A, B, C, ritorna indietro, fa questo molte volte in un'ora, durante il giorno. Questo magari l'avete sperimentato anche nelle cose quotidiane, mondane, e chiaramente è uno stato mentale non salutare, perché alla fine si sperimenta una fatica mentale. No. On occasion, there are the people who tend to be rather critical, and whatever they experience in life, they see it with a critical attitude, and this may even be because of the education system. Now, when such a person comes and does the meditation practice, then it's quite likely that such a meditator will have serious doubts or major doubts about the practice. Is this working? Is this good? Good enough? What are the? Are there really any benefits to this? Or this doesn't make sense, and so on and so forth, and. The person might not even realize that he or she is doubting all the time, and rather thinking, well, I'm just exercising my intellect, and I've been educated this way. So it comes as a major obstacle to the meditation practice. Quindi ci potrebbe essere il caso di una persona che è molto critica, magari anche per il sistema educativo con la quale è stato cresciuto, e questa persona, entrando in un centro di meditazione, cominciando a meditare, può avere dei seri dubbi, cominciando a pensare: ma sarà questo veramente buono, questo sistema dà dei risultati? E continua con questi tipi di dubbi nella mente, senza capire, senza realizzare che sono dubbi, che è uno stato mentale non salutare, ma pensando invece che sta esercitando le sue facoltà mentali. So, this thinking that this kind of a critical mind of doubting, continuous doubting, is okay. This is called unwise attention to doubt. And this is the proximate cause for the arising of doubt. Quindi questo pensare che questa mente critica sia ok, vada bene, sia giusta, è dovuta a un'attenzione non saggia, non corretta, ed è appunto la causa prossima del dubbio. No, similar to sloth, the presence of sloth and torpor, namely that there are certain consequences to this, in the case of doubt too, in the presence of doubt, certain consequences will be there, namely the mind will not incline towards ardor, towards devotion, and towards perseverance and striving in the practice. Quindi come la pigrizia mentale ha delle conseguenze, anche appunto il dubbio ha delle conseguenze per la mente, che sarebbe quella di renderla non inclinarsi, non tendere verso l'ardore, la fede, la perseveranza. No, in terms of ways and means of dealing with doubt. As usual, mindfulness helps a great deal. And Satnavin, secondly, carefully investigating the Dhamma and learning to discern between wholesomeness and unwholesomeness, this also helps to dispel skeptical doubt. Quindi chiaramente sono tutti gli stati mentali, la consapevolezza è il fattore principale, ma qui anche una certa comprensione è importante. È importante capire che cosa è salutare e che cosa non lo è per affrontare questo stato mentale. Also, what one could do is, when a lot of doubts arises in the mind, one could take the doubt itself as a teacher and make it the focus of one's sadhana meditation practice. So when you study something carefully, you will learn about sadhana, the nature of this sadhana particular new thing or topic, and sadhana, thus you gain knowledge, and then you know how to deal with it best. Quando molto dubbio sorge nella mente, un mezzo per trattare con questo è quello di prenderlo come come se fosse proprio un insegnante, e quindi capirne le caratteristiche, capire com'è la natura, e da queste comprensioni piano piano capire come trattare con questo. No. The opposite to doubt is faith, and this in the Pali language is known as saddha. And certain faith may also give or expressed as confidence, or as certain trust, or as conviction. Quindi lo stato mentale opposto a quello del dubbio è quello della fede, che in Pali si chiama saddha. E questa è definita come confidenza, convinzione, fede. No, the Visuddhimagga defines faith as having the characteristic of number one, placing faith in something, or as the second characteristic of trusting. And said in comparison to this, the characteristic of doubt was simply doubting. Quindi il Visuddhimagga definisce le caratteristiche di questa fede come appunto portare fede in qualche cosa, placing faith and trusting. E credere. And Satnavin, the function of Satnav faith is Satnav to clarify the mind. And its second function is to set forth, so to move ahead. E quindi la funzione della fede è quella di chiarificare la mente e di muoversi avanti, spingere avanti. Whereas the function in the case of doubt was to waver. Mentre nel caso del dubbio la funzione era quella di oscillare. And so, let's say if you intend to cross a river, and suddenly you keep wavering whether to cross or not, you'll probably won't make it. Whereas when faith or trust is there, then you go ahead and suddenly cross the river. Quindi, per esempio, facciamo un esempio, di che uno vuole attraversare un fiume. Se c'è il dubbio, probabilmente uno non sa quello che fare, andare o non andare, quindi probabilmente non lo farà. Invece se c'è la fede, questa sì, spinge avanti e porta verso l'obiettivo. No, the way we experience certain faith, and in other words its manifestation, is as clarity, and certainly its second manifestation is as resolution. So resolution, determination to move ahead. Whereas the manifestation in the case of doubt was indecisiveness and taking various sides. Quindi come si manifesta la fede, come la sperimentiamo, è definito come chiarezza, come risoluzione, come determinazione della mente, contro invece quella del dubbio che si manifesta e viene sperimentato come indecisione, prendere non prendere parte. No. A few general remarks about that, how to gain knowledge or wisdom about the nature of the mind and the different mental states. Adesso qualche piccolo dettaglio su come imparare, come imparare, sì, a capire la mente. So, one approach, which is a really, really simple one, is, as mentioned earlier on, the presence or knowing the presence of a particular mental state or its absence. Quindi la prima cosa molto semplice che si può fare è quella di conoscere se uno stato mentale, capire se uno stato mentale è presente o non è presente. No. So, as an example, to know that skeptical doubt is present in the mind, and then knowing this, one can deal with it. But if one doesn't even know that it's present, then one is going to be a victim of it. Quindi, se per esempio c'è dubbio scettico nella mente, se uno lo sa, può prendere delle contromisure, se no, non fa nulla, ne succube. Now, another very, very simple approach is to carefully observe a mental state or mental factor when it is arising, when it is appearing, and when it is disappearing. Because then one can see already what is certainly going to happen, which mental state is going to form. Is going to? Form. Okay. Un'altra un altro consiglio, insomma, che si può dare è quello di osservare molto attentamente quando uno stato mentale sorge e quando scompare. E quando scompare possiamo capire anche che cosa si va a formare. No, as mentioned earlier on, seeing opposites, pairs of opposites such as, or experiencing pairs of opposites such as restlessness of the mind versus tranquility. That also helps us to understand much better what is happening in the mind. Come anche abbiamo detto prima, vedere gli opposti, capire, ragionare per opposti può essere molto utile, come quello di confrontare l'agitazione mentale verso la tranquillità. And along the same line is also seeing the difference between wholesome mental states and unwholesome mental states. So first of all, recognizing anger is an unwholesome mental state, and restlessness would be an unwholesome one, skeptical doubt is unwholesome, and holding wrong views would be unwholesome, etc. And then on the other side, on the other side, we have the mental states such as non-hatred, which one form of it is loving-kindness, or patience, non-greed, non-delusion, mindfulness, wisdom, tranquility, etc. Those are all wholesome mental states. And with this, we gradually come to see, there's two totally different categories of mental states that occur in the mind. Quindi sulla stessa linea si può cercare di approfondire, di capire quali sono gli stati mentali salutari e quelli non salutari, come per esempio l'odio, l'avversione, avidità sono non salutare e cercare appunto di vederli, di sentirli come tali e poi compararli con quelli che sono i loro opposti, che è come potrebbe essere quello della gentilezza amorevole, la generosità, la consapevolezza, eccetera. No, yet another approach to learn something about the mind is by paying attention to the serial and causal development of different factors. To give you an example, the hindrances arise and one is fully aware of what they're arising. Then one works to overcome them, and having done so, one notices gladness arising in the mind. Then one notices how the gladness leads on to the arising of joy. Then one notices how the joy leads to the arising of tranquility, which in turn leads to happiness, and then to concentration, and eventually to wisdom. So with this, we have a long series of mental factors that follow one another. Quindi un'altra cosa che è importante anche vedere come la serialità, come la conseguenzialità di come si sviluppano alcuni fattori, come potrebbe essere quello che è, diciamo, ci sono le hindrances, gli ostacoli nella mente, i 5 ostacoli, e riusciamo in qualche modo a superare questi ostacoli. E vedere come, per esempio, nella mente può sorgere gioia, e dalla gioia può sorgere la tranquillità, e dalla tranquillità può sorgere la concentrazione, e finalmente dalla concentrazione la saggezza. And so, again, in the course of the meditation practice, we're likely to experience a number of insight knowledges, so stages of footnote wisdom. And in each of those certain insight knowledges, different mental states are likely to arise. And for us then, at each point, to know, okay, at this point such and such mental states occur. In a different insight knowledge, a different set of mental states arises. And so in this way too, we gain some knowledge about the mind. Quindi nella meditazione appunto di Vipassana possiamo sperimentare mano a mano andando avanti differenti stati di intuizione profonda e in ogni passaggio, in ognuno di questi stati diciamo di intuizione profonda si possono sperimentare differenti stati mentali e che ognuno appartiene a quel tipo di conoscenza, di intuizione profonda, di quello stato di intuizione profonda. Along that same line, it might also be helpful to know and to find out for oneself and then know the dangers that tend to go along with a certain mental state. So earlier on, we've spoken about sloth and torpor and the possible negative consequences of this, so the arising of lack of wisdom and lack of knowledge and lack of moral shame and moral fear. Quindi un'altra cosa importante anche da sapere per quanto riguarda i stati mentali appunto non salutari sono i pericoli che sono correlati, come appunto abbiamo parlato prima della pigrizia mentale, del torpore. I pericoli possono essere appunto quello di mancanza di saggezza, mancanza di conoscenza. In the case of effort, it is good to know its danger, namely, if there is too much effort, if we exert ourselves too much, then this is likely to lead to restlessness. On the other hand, if the effort is lacking, deficient, then the consequence is going to be, or the danger is going to be, sloth and torpor. So to know the dangers of each mental state might be very useful. Quindi anche conoscere i pericoli di ogni stato mentale potrebbe essere molto, è molto importante, perché per esempio se sappiamo che se mettiamo troppa energia nella meditazione potremmo diventare agitati, oppure se ne mettiamo poco sforzo poca energia nella meditazione, il risultato dovrebbe essere quella della pigrizia. Quindi conoscere gli effetti è importante. No, yet another aspect that the Buddha is recommending is that to know the gratification of or gratification in the context of a particular mental state. So to give you an example, when observing the precepts for a while, the gratification of this, the result of this, is going to be a sense of happiness arising in the mind. Or if you restrain the senses, then the gratification of this too is going to be a slightly different form of happiness. Or if we take mindfulness, the gratification of mindfulness is that sooner or later it will lead to the arising of concentration, and this in turn can lead to the arising of intuitive wisdom. Il Buddha ha parlato anche della gratificazione che possiamo sperimentare. Per esempio, se osserviamo i precetti morali, potremmo essere gratificati sperimentando della gioia, oppure se conteniamo i sensi, se freniamo le sensazioni, i sensi, sì, potremmo sperimentare un'altra forma leggermente differente, ma sempre di felicità. E per esempio invece se applichiamo la consapevolezza, possiamo essere gratificati dal vedere che la concentrazione sale, diventa più forte, e con questa di conseguenza possiamo anche sperimentare, vedere la saggezza aumentare. No, in a general manner, when it comes to dealing with mental states, then it's helpful to deal with them with an attitude of detachment and non-identification. This will make life much, much easier. Quindi ecco, l'importante attitudine di come affrontare questi stati mentali è quello del distacco, non identificazione. Renderà la vita molto, molto più semplice. And along the same line, usually we tend to identify with mental states. So we say, I feel happy, or I am happy, or we say, I am angry. So that's there's a strong identification here. Now, what the meditation practice does is that gradually we learn to detach from those mental states, and then we may say happiness is there and anger has arisen in the mind. So we then see those mental states as just mere objects of observation, and that's all. Quindi sì, questa attitudine di stacco, di identificazione è importante, perché all'inizio della pratica uno, vedendo gli stati mentali, provando gli stati mentali, ci si può identificare totalmente, cioè, io provo questo, io sono così, io sento quest'altro, ci si perde dentro. Invece questo distacco ci rende tranquilli, vediamo solamente come sono degli oggetti. No, allow me to conclude this Dhamma talk by wishing may a careful exploration of those afflictive emotions as well as certain other mental states lead you to clearly understand the dangers of these mental states, the gratification as well as find or see the escape from all formations. And may this exploration of mental states eventually lead you to that state of peace. And this is it. Quindi lasciatemi finire il Dhamma talk di questa sera augurandovi che possiate capire, vedere attentamente queste emozioni afflittive come tutte le altre emozioni, capirne i pericoli, capirne le gratificazioni e vederne anche la via di fuga da queste e che possiate finalmente sperimentare la pace. Sa, sa, sa.